Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. È bello essere qua in questa sala perché purtroppo mi sono persa, però andrò a riascoltare e rivedere quello che è successo in questi 2 giorni e mezzo. Allora, innanzitutto sono davvero contenta di essere qui oggi e che mi sia stato chiesto di in qualche modo partecipare a questo panel dove penso che venga trattato un tema che spesso e volentieri non viene preso in considerazione, anche diciamo, negli ambienti lavorativi, anche negli ambienti di sinistra. Dunque penso che sia importante fare una riflessione su questo. Parlando di razza, classe e genere, partendo proprio da una fabbrica, la vorrei prendere un po' alla lontana, dunque comincio parlando di quelle che erano, sempre parlando di razza, di quelli che erano i primi lavori che hanno fatto gli afrodiscendenti anche dopo la schiavitù negli Stati Uniti, dunque nelle fabbriche. Si parla di Detroit, si parla della fabbrica Ford, dove, come vi ricordate, se ve lo ricordate, insomma, la frase last hired, first fired, gli ultimi ad essere impiegati e i primi ad essere licenziati. Dunque si parte sì dagli anni 30, la Grande Depressione, successivamente sempre con la presenza più massiccia di persone degli Stati Uniti dal sud che andavano invece a lavorare al nord delle fabbriche. E poi si arriva al 1964 quando c'è il Civil Rights Act che dice che non ci deve essere questa discriminazione, insomma contro le discriminazioni in generale, in particolare ora si sta parlando di quello che riguarda la discriminazione razziale. Dunque, vediamo come all'interno di queste fabbriche, tipo per esempio nella Ford, diciamo nei settori, quelli più pericolosi, nei lavori più sporchi, lavori più duri, lavori più difficili, il 60-70% delle persone impiegate erano persone afrodiscendenti. Però cominciano a avere una storia in quelli che sono i cosiddetti i colletti blu, insomma, nella storia operaia. E che cosa succede? La Ford. Sente meglio? Io sentivo bene anche prima. Comunque, succede che la Ford, per mantenere, diciamo, quel settore sì, erano persone che non avevano poi la possibilità di avere molta altra scelta, dunque lavoravano a quelle condizioni, così come adesso ci ritroviamo negli anni qui in Italia, dove sono le persone più ricattabili, e però per un piccolo cominciava a fare quello che era un settore di formazione per cercare anche di dare un minimo di specializzazione a quegli operai e operaie afrodiscendenti. Allora, dalla fabbrica, dunque si parte da questa fabbrica e si dice dove le prime persone licenziate, purtroppo si parla anche del genere, qua non è rappresentato, diciamo, dall'autore perché non è una donna, però i primi tra gli afrodiscendenti che vengono licenziati sono sempre e solo le donne e successivamente gli uomini afrodiscendenti e poi tutti gli altri. Dunque che c'è una stretta correlazione, no? Fra quello che è colletto blu, lavoro e razza. E come viene raccontato? Si parla anche di quello, anche nella presentazione dell'autore Pap Kuma, che abbiamo qui sul palco con noi, viene raccontato che il suo libro, che è stato pubblicato nel 1990, che è il primo, diciamo, libro che racconta una storia. La storia è la sua storia autobiografica di un venditore ambulante di elefantini in questo caso, come simbolo di lavoro ambulante. Però in quello stesso anno, e qui in questo territorio a Firenze, nel 1990, infatti dopo vorrei una riflessione magari da Pap su questo, noi avevamo quello che era successo subito dopo, diciamo, l'omicidio di Jerry Maslow, che era nel 1989, e invece qui a Firenze, dunque c'erano state delle proteste, delle grandi manifestazioni. Nel 1990 a Firenze succede che A Carnevale vengono fatti intorno a Carnevale diversi raid razzisti contro quelli e di intolleranza contro quelli che sono i venditori ambulanti che sono sul territorio. In risposta, la comunità senegalese, che era la comunità afrodiscendente più grande in assoluto qui a Firenze, era tipo il 60-70% della comunità straniera presente, scende in piazza, occupa quella che è Piazza Duomo, c'è uno sciopero della fame. Dormiamo lì, al quale partecipo anch'io, e il sindaco allora, il sindaco Morales, come risposta, dice di mandare 250 persone di più delle forze dell'ordine per sgomberare questi, dice ci sono 10.000 immigrati di troppo che stanno disturbando e causano degrado e decoro. A questo, e si ritorna anche su questo che succede in questa fabbrica, c'è una convergenza fra quelli che sono gli studenti, dunque la Pantera, che da Palermo a su vanno avanti, dicono questa frase, anche la Pantera ha la pelle nera, non so se vi ricordate, sempre su questo, e anche i sindacati. C'è una sommossa in solidarietà, ma non solo, perché è una convergenza di lotte con le persone che sono sul territorio, che chiedono di poter lavorare sul territorio, perché ricordiamoci, si sta ancora parlando della legge Martelli, dunque non ci sono ancora, anche sulla materia di immigrazione, non c'era ancora nemmeno il permesso d'asilo per chi proveniva da parti che non erano dell'Est Europa. E sulla piazza di Firenze c'è questo grande sciopero che succede con la richiesta delle dimissioni del sindaco Morales da parte del PC, che era in giunta con loro, lui era socialista. E Morales, che cosa fa? Comunque, dopo che è stato criticato per tutto questo, fa sì che alcune piazze, alcuni spazi vengano dati agli ambulanti. Dunque, si parla a Firenze, si parla della loggia del Porcellino, di Piazza dei Ciompi e quant'altro, che può essere dato agli ambulanti. E questa, se uno va a vedere anche ora sui giornali, se andate a controllare e vedete, c'è scritto tipo le piazze della tolleranza, addirittura vengono chiamati, nome che a me non piace assolutamente. Cioè, tolleranza, come se uno dovesse tollerare, e dove si dice ci sarà la divisione fra i venditori neri e i venditori bianchi. Dunque, questa è una delle prime, diciamo, discese in campo, o comunque manifestazioni grandi che vengono fatte nell'89 e nel 90. Ritroviamo sempre sulla stampa, se si va a leggere invece di quelle che sono, come ci raccontano le prime manifestazioni, si vedono anche i fatti di Rosarno nel 2010, quando è scesa in piazza la comunità afrodiscendente dopo i fatti, dopo quello che era successo, e in primi, insomma, hanno manifestato in prima persona. Dunque, quello che cerco, insomma, di dire è che spesso e volentieri quello che ci viene narrato non corrisponde proprio a quello che è, cioè la presenza delle persone razzializzate sul territorio italiano, non solo fiorentino, c'è da sempre. Abbiamo visto, c'è da sempre, e spesso però non vuole essere riconosciuta. Abbiamo visto, per esempio, durante il Covid c'è stata questa mostra all'interno degli Uffizi che si chiamava On Being Present, che faceva vedere la presenza africana nei secoli all'interno di quello che erano i dipinti, le sculture e quant'altro, e la destra è scesa in piazza Fratelli d'Italia per dire che stavano facendo una mostra etnica, come se volessero africanizzare gli Uffizi, mentre facevano solo vedere quello che c'è. Se si parte anche dal primo duca di Firenze, Alessandro il Moro o quant'altro. Dunque è quello che esiste, che spesso e volentieri vuole essere raccontato in un modo diverso. Ora vado alle conclusioni, però della prima parte, ma per esempio, noi abbiamo visto nel 2020, sempre parlando di quello, anche nella presentazione della presenza di Papp come autore qui, si dice come la difficoltà che c'è stata, anche se viene raccontata in un modo molto ironico, a mio parere, e bello all'interno del libro autobiografico, comunque la difficoltà sia da ambulante, poi poi dopo, anche quando uno diventa impiegato operaio, anche lì che ti cercano di classificare in un certo modo, comunque mantenerti sulla scala più bassa. Questo lo vediamo con, dicevo, la ministra Bellanova nel 2020, quando ha fatto la cosiddetta sanatoria, dove si poteva accedere a quello che era una regolarizzazione del proprio permesso di soggiorno sul territorio, prima di tutto per bontà del datore di lavoro che doveva richiedertelo, ma dopo solo in alcuni settori, dunque agricoltura e lavori della cura, mentre sappiamo che, lo dicono anche i sindacati, che c'è bisogno e lavorano in nero anche su questo territorio fiorentino, senza andare proprio qui accanto a Prato, al tessile, però per quel che riguarda l'edilizia, il turismo, ci sono tante persone impiegate in questo, però non gli si vuol dare, no? Vogliamo lasciarli ancora nel punto più basso in assoluto. E un'altra cosa che aveva fatto Morales era quello di stanziare, una volta che è stato sfiduciato, però l'ha fatto, diciamo, sul rasoio, di stanziare dei fondi per la formazione delle persone regolarmente soggiornanti sul territorio, ma che però non avevano accesso non avevano una possibilità, erano ricattabili, ed è quello che spesso noi non prendiamo in considerazione, che così come siamo qui oggi, non in almeno io personalmente, ma penso la stragrande maggioranza, noi non siamo in solidarietà con delle persone, noi siamo qui per noi stessi, perché quello che è successo a loro ieri può succedere a noi in qualsiasi campo, dunque loro aprono a tutte e tutti, cercano non solo di far convergere le lotte, hanno fatto qualche cosa a mio parere fino a ora, ecco, questo è veramente nuovo, che sono riusciti anche a far sì che non si cerchi di contrapporre quello che è la lotta ai cambiamenti climatici con il lavoro, che è importantissimo. Io penso che si debba agganciare in qualche modo fortemente anche quella che è la lotta per i diritti civili, perché la lotta per i diritti civili non è una lotta, come si dice, che deve portare avanti il centro-sinistra della ZTL a presa di giro, perché se noi non facciamo di pari passo la lotta per i diritti sociali, per i diritti civili, avremo sempre comunque un esercito di persone ricattabili che andranno a fare quello che tu non vuoi fare, dunque è molto importante anche prendere in considerazione questo. E tornando all'oggetto e al perché siamo stati invitati qua, siamo stati invitati qua anche per ascoltare un racconto diverso, un racconto che spesso anche nell'editoria non si trova. L'altro giorno stavo parlando con Ija Bascego, che diceva che ora è uscito il suo ultimo libro, lo sta promuovendo, e dalle case editrici a chi promuove, cioè sono tutti esclusivamente persone bianche, spesso cisgender, a volte anche maschi, persone che in teoria non pensi che, visto c'è una percentuale circa dell'11% di persone afrodiscendenti residenti e regolarmente residenti sul territorio, che ci dovrebbe essere una rappresentanza anche in questo tipo, anche nell'editoria, in alcuni settori che per alcuni vengono considerati di sinistra, diciamo la cultura in teoria a questo appannaggio, purtroppo però siamo ancora troppo indietro. Dunque, per chi vuole raccontare una storia diversa, che c'è anche tanta la tradizione orale, anche da, io vengo, mio padre viene dalla Sierra Leone, io sono, perché quando dico io vengo dalla Sierra Leone, non sei italiana, no, sono anche italiana, dunque mio padre è sieraleonese, mia madre è italiana, e in Sierra Leone abbiamo molto, no, di questa tradizione orale. Qui abbiamo uno storico che sicuramente dopo, quando gli daremo la parola, che lui ci potrà raccontare molto anche su come, non solo su come si racconta la storia, sugli archivi, su come si mantiene e su come si scrive. Intanto passo la parola a Pap Kuma, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio Antonella per l'introduzione che ha fatto, dovrei dire che mi ha anticipato su tantissimi argomenti, ecco, che ha tirato fuori, e ringrazio anche voi qui presenti di domenica mattina, ecco. Perché la domenica mattina pensiamo più al far niente che al venire a ascoltare degli scrittori oppure dei racconti di immigrazione, ma questo fa parte, ecco, della nostra vita, della nostra quotidiana, parafrasando, come si chiama, scusatemi, sì. Fabrizio Di André, ecco, un cantante che è un poeta soprattutto che mi piace molto, quando cantava: e se credete ora che tutto sia come prima perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, puntini puntini, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte: per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Siamo tutti coinvolti. Quello che mi ha spinto a scrivere, perché io sono arrivato in Italia che non parlavo l'italiano, avevo letto solo una frase che, come una mantra, non so, che ripetevo quando, perché mi piaceva quando ero in Africa, una frase che diceva: così fan tutte. E io avevo questo ritornello. E mi ricordo che quando arrivai a Roma nel luglio dell'84, il 20 luglio dell'84, presi il treno per andare a Rimini perché avevo una busta di lettere, non avevo WhatsApp oppure no, un indirizzo scritto su una busta. Ho preso il treno e chiedevo alla gente dove dovevo scendere, e mi dicevano: binario, cambiare è binario. E io dicevo: ma che cosa è questo cambiare è binario? E non avevo capito che questo era il mio destino, cambiare. Ecco, è come se fosse un destino quello di cambiare, andare un binario. Per notti ho sognato, mi svegliavo di notte e sognavo quella parola, cambiare e binario, senza capire, no? Ecco, e sembra banale, però per me era anche simbolica, anche quegli anni. Quindi non sapevo nessuna parola italiano, però io leggevo molto, e questo lo dico ai ragazzi, no? Bisogna leggere, ragazzi. A me piaceva molto, molto leggere, ed ero curioso. E come leggevo io? E volevo sapere che cosa succedeva qui. Io come leggevo, come ho iniziato a leggere? Io sapevo e vedevo che all'epoca, dalle 4 del pomeriggio in poi, i giornali, i quotidiani erano morti, le notizie erano vecchie, i giornali venivano buttate nella spazzatura, e io andavo nella spazzatura a raccogliere i giornali, perché non avevo soldi per comprarli, raccoglievo e mettevo in un angolo e cercavo di capire. Le cose che non capivo le andavo a chiedere a uno o due persone che conoscevo lì al bar, per dire: cosa vuol dire? La prima volta che io vedi la parola Vucumpra su un giornale che si chiama Il Resto del Carlino, perché ero in Romagna. E io chiesi: ma cosa vuol dire Vucumpra? Nel bar dove mi lasciavano lo spazio per mettere le fantine, mi dice: ma siete voi Vucumpra? E io ho detto: ma e cosa vuol dire? Io non sono Vucumpra, io sono senegalese. No, lo dicevo col mio italiano, no? Dell'epoca. E qualcuno rideva e dice: ma che bugiardo, ma tu non sei di Sinigalia. Quindi io parlavo male italiano e i miei interlocutori confondevano Senegal con Sinigalia. Quindi c'era un problema di comunicazione, no? C'era un problema di comunicazione. quelle di essere, e poi non finiva lì, no? Quando sono queste cose che mi hanno spinto, il fatto di essere identificato dagli altri, che io non potevo dire io sono, no, mi devono dire tu sei e questo devi essere, tu sei un vatusso, no? Io dice, ma cos'è un vatusso? Io non ho mai sentito parlare di vatusso, non lo so. E mi dice, ma come fai a non sapere? Non parlavo italiano così comunque, come fai a non sapere che cos'è un vatusso in un africano? Ma sì, ma tesoro mio, io non so tutte le cose che succedono in Africa, chi sono, oppure sono cambiati, no, voi siete quelli più alti, e mi cantavano ogni due passi, noi siamo i vatusi e bla bla bla, e io me la prendevo. Poi la soddisfazione, quando ho scoperto veramente chi erano i vatusi, quando l'ho scoperto, quando dice, oh, voi siete i negri alti alti, vatusi, l'unica soddisfazione è che i senegalesi sono più alti dei vatusi. Almeno quello. Quindi è il fatto di essere identificati, tu non potevi dire, ma anche quando l'italiano migliorava un po', il fatto comunque dice tu sei questo, tu devi essere questo, il fatto di essere in verde dice ma no, a questo punto ho iniziato, quando leggevo un giornale e vedevo che diciamo delle cose che mi confondevano, le capitali sul giornale mi confondevano Niger e Nigeria, per dire vabbè sono vicine, ma però sei giornalista, io prendevo carta e penna, scrivevo le mie 4-5 righe, andavo a qualcuno, dici mi controllo, ecco se è corretto, e mandavo un fax al giornale. Io mandavo un fax, ma io ho iniziato così, mandavo un fax, no? State ridendo perché ho detto fax, sapete cos'è un fax? Secondo me qui sono dei giovani che non sanno cos'è un fax, vabbè andiamo avanti. No? Quindi io mandavo un fax, poi dopo andavo a verificare sui giornali se hanno pubblicato 6 lettere, no, del lettore, e andavo a telefonare alla cabina e dire ma io vi ho mandato un fax su questo, su bla bla. No, quindi così ho iniziato, no? Alla fine io feci uno dei primi servizi, era nell'89 dopo la morte di Jerry Maslow, in giro per l'Italia, anche a Firenze, per dare la parola agli immigrati. All'epoca non si usava il termine extracomunitario, non era ancora nato, perché è nato questo termine con la legge Martelli, no? A questo punto io ho girato l'Italia da nord a sud, ho fatto un servizio insieme a un amico, no? Per dare la parola agli immigrati. Sono venuto a Firenze perché? Perché c'era un caffè storico, non so se si chiamava Paskowski. Sì, Paskowski di Firenze. Io ho letto su un giornale a Milano, tipo scandalo, un nero o ragazzo di colore che lavora nel come cameriere nel caffè più storico di Firenze, e tutti i giornali ne parlavano perché c'era un nero a Firenze, forse era l'unico in Italia che lavorava. Era diventato una notizia clamorosa. Adesso parlando del... Hanno fatto interrogazione parlamentare. Sì, sì. Una cosa clamorosa su questa cosa. Perché? Allora, io intervistai quel senegalese, ex ragazzo all'epoca, e gli ho dessi la parola a questo e le feci parlare. No? Quindi io ho iniziato a dire no. Io smetto di lamentarmi. Di dire ma perché mi chiami Vatussi? Perché mi dici questo? Perché mi dici? No, io non potevo, no? Lottare contro i mulini a vento, di dire vuoi tu non puoi dire. No, io aggiungo la mia parola. Ti lascio parlare perché non te lo posso impedire, ma io aggiungo la mia parola per parlare di me, di parlare di noi. Quindi, per chiudere, scusatemi, io quando parlo non mi, perché il mio cognome Kuma significa parola, ecco, in mandingo, quindi quando, io ho Vento d'Elefanti, nato nel, uscito, pubblicato nel 1990, ma non aveva veleità letterarie questo libro, no? Io non pensavo di fare lo scrittore venendo in Italia. Io l'ho fatto per dire, io sono, noi siamo, no? Io l'ho fatto solo per comunicare, iniziare a rompere un monologo, perché c'era un monologo, quello di dire voi siete, voi arrivate, voi volete, no? Voi tu, eccetera. No, questo era un monologo, no? Ma anche quando gli italiani chiedevano, ma anche in maniera legittima, perché legittima vedere dei giovani arrivare nel mio paese, io dico, ma voi chi siete? Voi che cosa volete? No? Perché siete venuti? Ma sono domande legittime, ma a rispondere a queste domande legittime erano sempre gli stessi italiani, ah, loro sono, loro vogliono, era un monologo, non era un dialogo. Quindi io ho iniziato a scrivere per dialogare, ma non per avere delle verità letterarie. E poi dopo l'appetito viene mangiando. Grazie. Grazie, grazie Pappo, e dopo faremo delle domande un po' più precise. E intanto passo la parola a Alessandro Portelli, grazie di essere qua oggi. Beh, grazie. Io sono venuto qui a fare il mio mestiere. Il mio mestiere e il mio lavoro, che è quello di, cioè, fa parte del mio mestiere e del mio lavoro, quello di studiare letteratura, imparare dalla letteratura. In particolare io ho imparato soprattutto dalla letteratura afroamericana e dalla storia orale proletaria, e poi magari raccontarlo. Quindi, anche se sono in pensione, ma certi mestieri non smetti mai di farli, no? Quindi tra l'altro venire a fare il mio mestiere qui mi ricorda che uno dei grandi privilegi che ho avuto nella mia vita è di poter non separare il mio mestiere dalla mia militanza politica, e quindi fare quello che allora, la domanda fondamentale è in che modo il lavoro degli afrodiscendenti, in questo caso degli afroamericani, si trasforma in parole, perché stiamo parlando di letteratura. E io vorrei, io ho sempre dato di letteratura una definizione piuttosto ampia, che comprende tutte le forme della parola. Allora mi domando, è possibile che qui fra noi ci sia parecchia gente che conosce la canzone We Shall Overcome, che è la canzone fondamentale del movimento dei diritti civili? Come nasce questa canzone? Avete presente Renato Carosone, Tu fumi le camel? Ecco, la fabbrica delle camel in North Carolina è una fabbrica che occupava una forza lavoro molto, molto mista, molte donne e parecchi uomini, molti neri e molti bianchi. E succede una cosa importante nel 1942. Nel 1942 la fabbrica dei camel scende in sciopero, e alla testa di questo sciopero ci sono le donne afroamericane, le operaie afroamericane. Qual è lo strumento che tiene insieme tutte queste persone, che poi lo strumento che terrà insieme le persone che lottano per il movimento dei diritti civili nel sud, eccetera, è il canto. Quale canto? Essenzialmente è il canto religioso. Perché? Vabbè, intanto perché in grande maggioranza erano religiosi, ma anche perché il canto religioso non soltanto afroamericano, ma in genere nella tradizione anglosassone, ha una straordinaria capacità di far sentire la gente come comunità, come congregazione. Una di queste canzoni che loro cantano è un brano gospel scritto nel 1909 che dice I'll overcome someday, io ce la farò prima o poi. Questo senso di io ce la farò, e ne sono piene le canzoni afroamericane. Per esempio c'è un'altra bellissima che dice How I got over, come ho fatto a superare gli ostacoli. Tra i gruppi che solidarizzavano e aiutavano a tenere in piedi questo sciopero, perché negli Stati Uniti gli scioperi non sono come da noi, non è che poi fa 15 minuti di sciopero o lo sciopero a scacchiera, lo sciopero è totale e a oltranza, quindi stai in sciopero per mesi, non mangi, non ti pagano e quindi hai bisogno di sostegno. Fra questi c'era una realtà che si chiama Highlander. Highlander era un centro di formazione sindacale antagonista fondato negli anni 30 nel pieno del sud per organizzare gli operai tessili e i minatori. Bene, da Highlander partecipano a questo sciopero, hanno tutto un lavoro culturale per cui scoprono questa canzone I'll Overcome, che gli viene cantata dagli operai della Camel, e nei workshop, nei laboratori che fanno di formazione per la lotta ai diritti civili, la insegnano, e guarda caso questa cosa da io ce la farò diventa noi ce la faremo, che succede anche ad altri canti. Per me è molto difficile non inoltrarmi in tutte le cose che amo, però ogni tanto mi devo controllare. Fra l'altro Highlander, però questa non ve la posso non dire, a Highlander ci sono andato e ero lì. Highlander è creato da bianchi, operai, da operatori culturali bianchi, ma ero lì che salutavo, entra una segretaria e dice al direttore, senti, c'è Rosa Parks al telefono. Beh, maestro, ho detto, c'è Carlo Marx, mi emozionavo di meno, perché Rosa Parks ce l'avevano, ecco le storie non raccontate, ce l'avevano sempre raccontata come la povera vecchietta che gli facevano male i piedi, non gliela fa alzarsi e poveraccia. Rosa Parks aveva partecipato a un laboratorio di formazione politica a Highlander prima di fare quello che ha fatto, che è un segno importante, perché noi alle storie degli oppressi, degli emarginati, eccetera, gli riconosciamo sempre la sofferenza, la pena e il dolore, raramente l'intelligenza. L'intelligenza è una virtù dei dominanti. No? Non pensavo di dire una cosa così. Però voglio dire, tra l'altro la GKN ce l'ha insegnato a tutti, anche se non l'avessimo saputo prima. Ecco, quindi diciamo c'è questa storia, che secondo me è una delle storie importanti, di come una lotta diventa una canzone e la canzone aiuta altre lotte. Come diventa parola l'esperienza di lavoro degli afroamericani? Perché, vedete, gli afroamericani sono presenti in fabbrica da prima che finisca la schiavitù. Nelle fonderie di Birmingham, Alabama, lavoravano schiavi neri. Poi, appunto, come lei raccontava, vengono reclutati per la Ford. Quando Ford dice che grazie alla catena di montaggio è un lavoro che lo può fare pure una scimmia. E recluta quelli che i razzisti continuano scimmie. No? E quindi, Però la presenza in fabbrica continua in condizioni appunto di lavoro non qualificato, mi ricordo che alle acciaierie di Pittsburgh tipicamente gli afroamericani occupavano i posti più nocivi. Il problema è, di tutto questo esiste pochissima narrazione letteraria, un po' per due ragioni. Uno, io credo che ha con la grande difficoltà di raccontare il lavoro. Perché, e questo è anche, insomma, io sono, c'ho mezzo secolo di interviste con operai dell'acciaieria di Terni. Quando gli devo domandare, vabbè, allora facevi il tornitore, ma che fa un tornitore? Si alzano e me lo fanno rivedere a gesti, perché il lavoro non si impara verbalmente. Il lavoro si impara, dicono, a rubeccio, si impara con gli occhi, no? E quindi c'è una difficoltà a mettere in parola il lavoro. L'altra è che la componente afroamericana, la componente afroamericani che fanno lavoro industriale classico, c'è appunto in tutta la storia che abbiamo raccontato, ma in realtà è una minoranza abbastanza limitata dell'esperienza complessiva degli afroamericani. Perché che lavoro fanno i personaggi dei romanzi della letteratura afroamericana? Lasciando perdere tutta la grande tradizione, naturalmente, delle autobiografie di schiavi. Che so, il personaggio di La terza vita di Grange Copeland di Alice Walker è un bracciante, anzi, è un mezzadro in condizioni molto più pesanti dei mezzadri nostri. Il protagonista di Jazz di Toni Morrison è un rappresentante di cosmetici. Il narratore afroamericano più interno alla vicenda del movimento operaio, Richard Wright, negli anni 30-50, militante del Partito Comunista, eccetera. I suoi personaggi, protagonista di Native Son, fa l'autista per una famiglia bianca. Più tardi, in The Outsider, il protagonista lavora all'ufficio postale. Perché lavora all'ufficio postale? Perché l'unico posto di lavoro a cui hanno accesso gli afroamericani è il servizio postale, perché dipende dal governo federale e quindi non si applicano altrettanto duramente le norme razziste della discriminazione razziale. Quindi la letteratura afroamericana ci racconta la varietà, complessità e soprattutto la precarietà del lavoro afroamericano, la sua marginalità. Ovviamente la protagonista di The Street di Ann Petrie è una casalinga, e fa lavoro domestico nelle cucine dei bianchi. Cioè, questi sono i tipi di lavoro prevalenti e più diffusi. No? Dov'è che il lavoro viene invece in qualche modo raccontato? Viene raccontato diventa opera d'arte, diventa letteratura, diventa poesia, soprattutto nel canto. E in qualche modo viene rifiltrato attraverso un'immaginazione condivisa. L'altro giorno mi sono trovato in grande imbarazzo a Roma, perché c'era un ben intenzionato coro, di questi bellissimi cori multietnici, come li chiamano, in cui italiani nativi e italiani di seconda generazione o migranti stanno insieme per fare musica insieme. E molto avviene nelle scuole. Quindi questo era un coro che era, chiamiamolo, multietnico, per la semplice ragione che ormai le scuole sono, per fortuna, multilingue, e la maestra gli aveva insegnato una canzone e loro la cantavano, tra l'altro con un inglese improbabile: jump down, turn around, pick a bell of cotton. E pensavano che fosse una, la cantavano come un balletto. E allora, jump down, turn around, pick a bale of cotton. Ma riuscì, pick a bale a day, raccogli una balla di cotone al giorno. Vabbè, se qualcuno ha letto quel grande romanzo che è La capanna dello zio Tom, per raccogliere una balla di cotone al giorno ti ammazzi di fatica. E perché jump down, turn around? È la trasfigurazione di quanto ti devi muovere rapidamente, fulmineamente, devi girarti, raccogliere, jump down, turn around, perché devi metterlo nel sacco, eccetera. Cioè sono i gesti del lavoro che in qualche modo è un lavoro che è reso possibile dal fatto che lo vivi come una danza, non perché ti stai divertendo, ma perché è solo la capacità di tenere il ritmo che ti organizza la fatica. A proposito di lavoro, nelle miniere del Kentucky, dove ho pure raccolto un po' di storie, c'è una componente dei minatori neri, e mi raccontava uno di loro che lui in miniera aveva retto 6 mesi, perché siccome non aveva mai preso una pala in mano, non sapeva, non riusciva a capire il ritmo dello spalare, e quindi si spezzava la schiena mentre vedeva che gli altri ce la facevano. Ecco, quindi fra l'altro questa cosa me l'ha raccontata anche un sopravvissuto del campo di Auschwitz, dove stava Primo Levi. Stessa cosa, un giovane ebreo che faceva il venditore ambulante, che non ha mai preso in mano una pala, e non capisci che anche per fare il più teoricamente dequalificato dei lavori, cioè spalare, beh, lo devi saper fare. Ci vuole intelligenza e ci vuole ritmo. Ora, c'è una ballata, una canzone tradizionale fondamentale su questo, della tradizione afroamericana, che è John Henry. John Henry è una storia vera, fra l'altro, è veramente esistito, c'è un libro bellissimo, eccetera. E John Henry lavorava di mazza e scalpello a scavare la galleria del Big Bend Tunnel per far passare il treno nelle montagne del West Virginia. Un giorno, racconta la canzone, il capo cantiere dice: porto qui una macchina a vapore che scaverà molto meglio di te, non c'è più bisogno di te. E John Henry risponde con le memorabili parole: un uomo non è che un uomo. Che sono tra l'altro le stesse parole di una grande poesia di Robert Burns, poeta scozzese del Settecento, sulla dignità, sulla rivoluzione contro l'aristocrazia. Un uomo non è che un uomo. E quindi, prima di farmi battere dalla tua perforatrice a vapore, io morirò col martello in mano. C'è la gara, John Henry vince, però la fatica è tale che muore. E questa è una straordinaria narrazione della dignità del lavoro in genere, in questo caso afroamericano, ma gli afroamericani qui rappresentano letteralmente l'umanità, tutti, e del corpo operaio. Ma c'è un verso nella canzone che dice la stessa cosa dei miei spalatori. Quando John Henry dice al suo aiutante: canta, perché se il mio, è una delle tante varianti, ma perché se il mio martello non colpisce quel pezzetto di acciaio, domani ti seppelliscono. Nel senso che i movimenti di lui col martello e di quello che gli mette lo scalpello sotto al martello devono essere assolutamente sincronizzati, se no invece di pigliare il martello, lo scalpello piglia lui. E quindi anche qui c'è questa dimensione fondamentale del saperlo fare, dell'avere un sapere del corpo che ti permette di salvarti la vita. Ora, per finire, c'è un romanzo di un importante scrittore afroamericano contemporaneo, Colson Whitehead, che ha scritto un romanzo, secondo me, non bellissimo, che è La ferrovia sotterranea. Non bellissimo, c'è di molto meglio, no? Il suo primo romanzo si chiama John Henry Days, I giorni di John Henry. Ed è un romanzo sul lavoro, ma su un lavoro che fanno parecchi di noi qui dentro, perché è la storia di un gruppo di giornalisti che vengono inviati in West Virginia a raccontare il festival che si svolge ogni anno per ricordare la storia di John Henry. E lui si accorge a mano che il lavoro intellettuale sta diventando non molto diverso dal lavoro manuale di John Henry. Sei pagato a riga, hai scadenza, i tempi di consegna opprimenti, quello che scrivi non viene, ci fanno quello che gli pare e così via. E cioè che in qualche modo la esperienza del lavoro manuale di chi con le mani scavava il buco nelle montagne di West Virginia diventa il paradigma dell'esperienza del lavoro di tutto il lavoro nella contemporaneità, alienazione, sfruttamento e umiliazione. Ecco. Quindi in questo senso diciamo che che noi non abbiamo in letteratura molte narrazioni su gli operai afroamericani, neanche gli operai bianchi della Ford, a dir la verità, no? ma abbiamo invece questa memoria che è incarnata nella voce, che è incarnata nel corpo, e che si fa parola e che si fa, ed è questa la cosa secondo me importante in cose come Peekaboo Cotton o come John Henry, che non è una documentazione del lavoro, ma è una sua interpretazione simbolica come, diciamo, come relazione fra il corpo e la macchina, che la macchina sia la scavatrice a vapore o la macchina dell'industria editoriale di cui si parlava prima a proposito di Jabba. Ecco, che in qualche modo la resistenza dell'intelligenza e del corpo in cui l'intelligenza è incarnata è lo strumento di resistenza e sopravvivenza dentro questa macchina assassina che ci vuole uccidere a tutti. Grazie. Grazie davvero, interessantissimo, molto interessante. E riguardando, anche rileggendo, so che anche sul territorio comunque italiano, anche con Giovanna Marini e altro, c'è stato... Qui siamo accanto all'Istituto Ernesto De Martino. Siamo accanto all'Istituto De Martino, che anche, infatti, non solo. Dunque sì, anche per raccontare quelle che sono le storie, ora ci ha parlato soprattutto degli Stati Uniti d'America, però ha un'importanza anche... Anche qui, magari dopo un secondo giro, se c'è ancora tempo, faremo una... Non ho capito? Mi stanno facendo cenno, forse, che non ci sarà molto tempo? Allora, molto veloce, due ultime battute. Ora volevo dire, per quel che riguarda il fatto della ricerca che viene fatto, trascrivere i ricordi, mantenere un archivio, mantenere viva la memoria, che come ascoltando anche alcune lezioni che ha fatto Alessandro, dove dice intanto l'importanza degli archivi sono anche quelle, no? Intanto noi abbiamo il materiale, magari quello che per oggi, che adesso non è interessante, potrebbe poi risultare interessante più in avanti. Noi abbiamo gli archivi da dove possiamo ripescare, no? Da questa memoria, e penso che sia molto importante. Ritornando al nostro autore, a Pap Kuma, volevo chiedere, per quel che riguarda il primo suo libro che è stato scritto a quattro mani, poi come ci ha raccontato l'appetito vien mangiando, dopo hai continuato a scrivere e hai scritto altre storie, non solo di te stesse ma di altri, ultimamente anche tradotto, poi ce lo spiegherai, un Wolof, delle opere importantissime anche a livello, diciamo, mondiale, non solo italiano. Però quello che volevo dire, che volevo chiedere, è proprio questo qui che ci stava dicendo, dunque l'importanza del raccontare, in questo caso, in questo festival, raccontare il proprio lavoro, raccontare se stessi, ma anche l'importanza di raccontare parte della società, anche vista non solo sempre dallo stesso ottica, dallo stesso punto di vista. Per esempio, tu hai altri libri che non sono autobiografici, però che raccontano sempre delle storie, perché spesso purtroppo ci ritroviamo... Fate conto, solo perché siamo afrodiscendenti pensano che si possa magari trattare esclusivamente di quello che riguarda la razza o altro, e che non possiamo avere un'altra visione su tante altre tematiche. Ora passo la parola a Pap, veloce, così facciamo chiudiamo, però sarebbe interessante anche conoscere meglio il tuo lavoro, grazie. Prima hai parlato di oralità all'inizio, no, della letteratura orale, che un mio amico, così come la Ebri, un medico scrittore che vive in Brianza, parla di oralitura, no? Ecco, quel fatto di raccontare, quel fatto di mettere anche su carta, di registrare. C'è un detto, per tornare all'oralità, africano, che parla della versione del leone, no? Perché di solito noi sentiamo soltanto la versione del cacciatore, ecco, che dice: ah, bah, il leone, sono andato, ho sparato, è scappato il leone, e si parla del leone e si dice: ma ogni tanto bisogna anche sentire il leone, ecco, che racconta la sua versione, no? E ne sentiremo delle belle, no? Quando il cacciatore è scappato, quando si è cagato addosso, eccetera, eccetera, eccetera. È un'altra versione, no? È quello che noi facciamo, perché è quello che cerco di fare, e chi scrive, no? Dai Giaba a tutti gli altri, ci sono tantissime donne afrodiscendenti, Caha, c'è Cristina Alifara, ma ce ne sono tantissime, ecco, ma ci sono Inji Muyab, ci sono tantissime che scrivono, che raccontano, ecco, di sé, e non solo delle immagini che noi vediamo. Vi rendete conto che ultimamente ogni tanto cambia nella stampa l'immagine dell'africano, l'immagine del nero, no? Come viene presentato in diversi modi, ma spesso in maniera negativa. Adesso, quando c'è un dibattito sull'immigrazione, ecco, sull'immigrazione alla televisione, no? Il giornalista di solito dice: ma allora dovete andare a vedere la stazione di Roma come è ridotta, dovete andare a vedere la stazione di Firenze, dovete andare a vedere la stazione di Milano, di Napoli, delle grandi città. Quindi l'immagine di cui si parla quando si parla di immigrazione, prima si parla solo di africani, ecco, come se fossero soltanto africani e neri, ecco, gli immigrati. Se noi andiamo a vedere i numeri, no? Forse siamo più vistosi, visibili, ma siamo anche lì una minoranza dentro la minoranza, no? Quindi si parla di questa immagine. Andate a vedere la stazione di Milano. Io abito vicino alla stazione di Milano, è vero, ci sono 30 ragazzi, facciamo anche 50 che sono sempre lì, ragazzi neri e non solo, che sono sempre lì. Però non sono questi 50 ragazzi che danno fastidio, che rompono le scatole, questo è vero, no? Che devono rappresentare l'immigrazione, ecco, il pericolo dell'immigrazione, la mancanza di integrazione, che non vogliono, ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è vero che io racconto anche queste cose, perché fanno parte della realtà, ma racconto anche altre storie. C'è una storia che non è stata ancora raccontata, o delle storie che non sono ancora raccontate, che riguardano anche gli afrodiscendenti, no? Quando ci fu la pandemia, nel 2020, nel 2022, no? Si parlava di medici, gli infermieri, no? Erano diventati, e giustamente, no? Ecco, gli eroi di quel momento. Alcuni hanno perso la vita, ma se noi andiamo a vedere le fotografie, le immagini che fanno vedere, erano tutti bianchi, solo bianchi. Ma negli ospedali ci sono infermieri che non sono anche bianchi, no? I cosiddetti, come si chiamano, il OS, no? Quelle che fanno le OS sono quasi tutte, o tutte, qui parla di donne, no? Di origine straniera, nere o non nere, no? E quando si fanno vedere delle storie, quando le storie sono positive, gli immigrati scompaiono, i neri scompaiono. E per questo parlavo prima della versione del leone. Parlavo della versione del leone, che dice: se tu non la racconti tu, la tua storia, perché lì quello che sto facendo io adesso sono lamentele. Allora la cosa migliore è prendere la parola e raccontare quell'altra parte della verità, perché la verità, no, come si dice in Africa, no, che esistono tre forme di verità: la mia, la tua e la verità. Quindi far vedere i medici negli ospedali che sono è la verità. Questo è la verità. È la verità di chi la racconta, no? Ma manca veramente la verità. E questa è la società italiana, no? Questo è diventato la società italiana nella maniera positiva e anche a volte ci sono anche delle cose negative, come in tutte le società. Per tornare al libro, per tornare al discorso di razza, io ho pensato a scrivere questo libro. Questo libro in cui Balotelli aveva 19 anni e tutti parlavano di Balotelli, del suo carattere, eccetera. E ci fu a Torino una partita di calcio dove i tifosi, o una frangia dei tifosi juventini, avevano messo uno striscione che i neri, non so se hanno scritto negro, nero, no, non possono essere italiani, no? Quindi un nero non può giocare nella squadra azzurra. E questa era rivolta a Balotelli, perché ci doveva essere la Coppa del Mondo, i mondiali in Sudafrica, e si diceva se prendere Balotelli o non prendere Balotelli. Quindi questo hanno detto no, che i neri non possono, un nero non può essere italiano, non può giocare nella squadra azzurra. E io, sentendo, ho detto ma allora ha cambiato la parola azzurra, perché già la parola azzurra non è italiana, non ha un'origine italiana la parola azzurra, no? Ma anche nella lingua che parliamo italiano, su questo, no? Possiamo trovare tantissime parole, non è soltanto la società che è mista, ma anche la lingua italiana. La lingua italiana, in quel libro parlo anche di queste cose, e io ho pensato a quello, dici ma le due parole più amate degli italiani, che è azzurra, che è la squadra azzurra, e ragazza, no? Non sono di origine italiana, e lì posso fare un elenco infinito, da zecca, da carciofi, ma migliaia di parole che arrivano dal Nord Africa, che arrivano, no? Per dire, ma anche la lingua italiana è una lingua bastarda, no? E bastarda non è un insulto. Quindi io ho iniziato, perché quando ne parlavo con i miei amici, di questo, anche amici di sinistra, mi dicevano ah no, Balotelli ha un caratteraccio. Io dico ma che cosa c'entra il caratteraccio con la cittadinanza? Ma io posso essere italiano e essere stronzo, dov'è il problema? Perché devo per forza, solo perché sono nero, devo essere simpatico e sono italiano? No, ma non c'entra il carattere, è un altro discorso, no? E poi ci fu anche un altro, e poi dopo mi fermo, all'inizio del libro ci fu anche un altro fatto di una ragazza nera che è stata aggredita, credo a Udine, e la cosa finì in tribunale, e io vi leggo la sentenza della Corte di Cassazione. E questa è la Corte di Cassazione. L'espressione sporco negro, pronunciata da un uomo di 25 anni mentre insieme ai suoi una meno grave manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto per chi appartiene a una razza diversa. E questa sentenza è stata pronunciata da un giudice in nome del popolo italiano nelle austere aule della quinta sezione penale della Corte di Cassazione nel gelido dicembre 2005, no? Il libro inizia così e si va al concetto di razza, no? Al concetto di razza, no? Per dire, ma e poi questo anche ne ho discusso con degli amici afroamericani, no? Il discorso di razza, che quando si confonde razza e colore, no? Quando si confonde, no? Per tanto tempo razza e religione, no? Ne ho discusso con loro, ecco, su questo, che mi hanno illuminato, ecco, su questo discorso di race, che mi dice no, per noi esiste race, mi dicono per noi esiste, no? E gli dico, da questa parte davvero la razza è un altro discorso, no? Allora, quindi si confonde molto, ecco, questo aspetto. Quindi questo libro, ho dato la parola e mi fermo. E mi fermo. ecco, bene, ho dato la parola agli afrodiscendenti, no? Che raccontano il loro essere italiani in questo libro Noi Italiani Neri. Grazie. Ora diamo la parola al pubblico, se qualcuno vuole fare delle domande. Io comunque volevo solo dire, a me è stato detto sporca negra e dopo 7 anni di udienze così è stata condannata la persona che me l'ha detto. Scusate, chi vuole fare domande eventualmente o si avvicina al palco oppure anche lo possiamo portare un microfono se alzate la mano, si velocizza un attimino perché massimo un quarto d'ora, grazie. Io volevo fare una domanda che diciamo che ha attraversato i dibattiti di ieri e quello di oggi. Intanto grazie veramente a tutte e tutti di questi 3 giorni. Ed è quella della contraddizione che sta tra letteratura e working class. Diciamo, si scrive da soli, però la classe non si è da soli. Ieri veniva detto da Alberto Brunetti, in fondo il lavoro appunto è sempre collettivo e quello che stiamo costruendo qui è collettivo. Di Hunter ha detto che bisognerebbe togliere la penna dalle mani dei borghesi che raccontano appunto delle storie che sono spesso individuali. Oggi Sandro Portelli ha detto spesso non consideriamo l'intelligenza appunto degli oppressi, è appunto un'intelligenza che è spesso un'intelligenza collettiva. Ha citato questo libro di John Henry Days di Colson White, quando lo facemmo a Minimum Fax ha venduto 800 copie, quindi compratelo che è ancora disponibile. E negli ultimi anni in qualche modo ci sono stati degli accenni che hanno diciamo il Nobel a Bob Dylan, il Nobel a Arnie Arnault, hanno raccontato appunto sicuramente un'autorialità almeno più collettiva. Un po' la domanda che buttavo qui a fianco è questa: come mettere insieme appunto il bisogno di essere classe, collettività, intelligenza collettiva, con il fatto che poi a un certo punto uno scrive, però scrive spesso, insomma la storia della letteratura è fatta di autorialità singoli, come fare a mettere insieme queste due cose? Anche nell'intervento di Paco Marco, insomma, c'era la stessa questione, le cose che dicevi tu, ma tutte diciamo che il nome del festival viene dentro questa contraddizione. La letteratura spesso è fatta da singoli e invece la classe. Vogliamo prendere anche l'altra domanda, così dopo facciamo la risposta singola. Grazie mille. Allora, si è accennato alla tradizione orale, la tradizione del canto afroamericano, ecco, anche come essenzialmente, se si intende la letteratura in senso molto ampio, è letteratura anche quella, anche si possono trovare raccolte antologie di canti gospel, di canti blues, quali forse di recente è stata data dignità letteraria. Quando parliamo del contesto italiano e della tradizione orale che comunque si è formata in Italia, esistono musicisti, artisti italiani che magari, cioè italiani di discendenza africana, italiani neri, che comunque si sono espressi anche tramite la musica, tramite il canto. E dove si può posizionare quello all'interno di una riflessione sulla cultura italiana nera, working class, o sulla cultura italiana nera, anche prendendo il termine in senso un po' più ampio? Grazie di questo incontro, veramente, davvero, a tutti e tre. E volevo chiedere in particolare a Pap Kuma, partendo, io non so, conosco molti senegalesi e conosco, ho avuto il piacere di conoscere la forma dell'oralità senegalese, cioè la possibilità che tantissimi senegalesi hanno e la grande passione che hanno nel raccontare, ecco. E io sono... Vorrei fare una domanda su ciò che ritorna in Senegal. Sicuramente, ovviamente, nel Senegal le storie della migrazione arrivano, ma vorrei sapere anche se dal punto di vista letterario della scrittura c'è una letteratura in francese o in Wolof, non lo so, insomma, qualcosa del genere, che in Senegal viene sull'Italia, sull'Europa e così. Cosa arriva dal punto di vista letterario? Grazie. Vabbè, tanto una cosa sull'oralità. Una delle poche cose che, salvo mutilazioni o patologie, tutti gli esseri umani hanno in comune è il fatto che parlano. E quindi la oralità è la forma di comunicazione di gran lunga prevalente in tutte le società. E quindi... è ovvio che pure in Italia qualcuno canta, no? Cioè, dicevo prima, basta fare 3 minuti di macchina, l'Istituto Ernesto De Martino è il cuore di questa storia. Su come si collocano i musicisti, cioè, io ricordo di aver scritto negli anni 80 un articolo in cui scrivevo che Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea sono la grande poesia civile del nostro paese. Io rimango convinto del fatto che no, perché lui prima citava De André, no? Ma io rimango convinto che Giovanna Marini non è solo una grande musicista, è una grandissima poeta, e scrive e i testi di Giovanna Marini sono una narrazione del nostro paese nell'ultimo mezzo secolo assolutamente fondamentale da un punto di vista diverso. Quindi io personalmente, la mia tesi di laurea è stata su Woody Guthrie, che è un poeta popolare, un cantore. Quindi diciamo, sì, noi dobbiamo allargare una definizione di letteratura a includere modalità narrative diverse. Questo anche perché una delle cose di cui mi sono reso conto nella comunicazione orale, che non è solo tradizione orale, perché voglio dire, non è che tutti quando aprono bocca dicono solo cose tradizionali, no? Diciamo buongiorno, buonasera, come stai, eccetera, no? Nella comunicazione orale, cioè voglio dire, in un'intervista di storia orale in cui tu parli con una persona e ti fai raccontare più o meno la sua vita, la ricerca, diciamo, documentaria, la verità, e la ricerca estetica sono inseparabili. Nessuno racconta la propria vita senza voler fare un bel racconto. Per cui tipicamente l'intervista di storia orale comincia con una persona che dice: ma io non ho niente da dire, e 3 minuti dopo dice: la mia vita è meglio di un romanzo. È quasi sempre vero, no? Oh, sul romanzo, qui il problema è che il romanzo nasce con la grande scoperta borghese delle rivoluzioni borghesi dell'individuo, e quindi fatica a dar conto di un'esperienza collettiva. Il romanzo proletario americano degli anni 30, per esempio, con qualche punta di valore e Jack Conroy, che nessuno ha mai tradotto in Italia, ma sostanzialmente non riesce né a dar conto dell'esperienza individuale né di quella collettiva. Però intanto noi scopriamo che una parte quasi maggioritaria della scrittura operaia è autobiografia, e quindi questo significa narrazione di sé come individui, perché una delle cose che la storia orale, l'autobiografia e il romanzo proletario contemporaneo ci insegnano è che la classe è un insieme, ma un insieme abitato da individui che sono uno diverso dall'altro. Come sono uno diverso dall'altro i gruppi nazionali e così via. Voglio dire, l'altro ieri ho intervistato un ragazzo del Gambia che sosteneva che tutti i problemi li provocano, sono tutti colpa dei nigeriani, quindi evidentemente tra gambiani e nigeriani qualche tensione c'è, anche se poi noi li trattiamo come se fossero la stessa cosa. Quindi ecco, secondo me questo è un elemento, è un dato fondamentale, cioè la letteratura, la storia orale, l'autobiografia ci aiutano ad avere una percezione della classe, e non solo della classe, ma dei cosiddetti gruppi etnici, quello che vogliamo, delle comunità, come comunque aggregazioni di individui. Ed è tra l'altro grazie a queste cose che ci siamo cominciati a rendere conto, per esempio, che c'è tutta una grande storia di donne nel movimento operaio, no? Che non tutto il movimento operaio è fatto dei metalmeccanici della Fiat, ma che ci sono le operaie tessili, c'è la Filanda, e che poi, altra cosa riprendendo una cosa che diceva lui prima, i lavoratori mica parlano solo di lavoro, come gli immigrati mica parlano solo di immigrazione. Tra i lavoratori ci sono questioni di genere, ci sono questioni di generazione. L'Italia è piena di lavoratori che cantano e suonano o che dipingono. O che scrivono, no? Cioè riconoscere la piena, totale umanità di ciascun membro di questa classe, perché se no non riconosciamo neanche l'umanità della classe nel suo insieme. Quindi riconoscerla anche come divisa, conflittuale, come un luogo non astratto, ma concreto. In questo senso, una delle cose in cui mi sono imbattuto fin dal primo momento in cui ho cominciato a domandarmi: ma non esisterà una letteratura afro-italiana come esiste quella afroamericana che io studio da sempre? E dirmi: ci sono voluti 200 anni prima che si ammettesse che Phyllis Wheatley, schiava 17enne, che è la prima donna che pubblica un libro di poesie negli Stati Uniti, prima che ci si accorgesse che Phyllis Wheatley era una grande artista. Vogliamo aspettare 200 anni prima di ascoltare Cristina Lifara o Inji Mubiai o Hijab Ashego, naturalmente no. Quindi, diciamo, però una delle cose in cui mi sono imbattuto è stata il fatto che, così come non si riconosce alle figure marginali, oppresse, sfruttate, l'intelligenza, non si riconosce neanche la creatività. Per cui Sala Metnani, tunisino, scrive un romanzo e viene pubblicato come autobiografia, perché i migranti possono solo testimoniare la loro sofferenza, non possono essere artisti della parola che inventano storie, che creano storie, no? Ora, in realtà penso che tu abbia risposto benissimo anche alle domande. Io sì, infatti avrei detto anch'io che quando si parla della working class, a parte dal primo giorno ho sentito da fuori, insomma, che si dice: che cos'è questo dunque, il fatto che sia una famiglia, fra virgolette, come si dice qui in questa fabbrica. composta da però diversi sistemi di oppressione, perché le radici del razzismo, dell'omo, lesbo, bitransfobia, abbiamo visto anche l'altro giorno che avevamo il filo sottile, il libro che parlava anche di questo, fa parte sì della stessa famiglia, ma non partiamo tutti, dunque la classe bassa non può servire a spiegare quelle che sono le radici che vengono proprio all'interno di questa sia delle istituzioni che a livello dell'economia globale dove ci troviamo. Dunque, come diceva ora Alessandro, vedere questa grande famiglia con singoli individui e però prendere in considerazione anche le varie istanze di tutte e tutti. Anche per questo penso che stia riuscendo questa lotta, se abbiamo anche tutte queste persone qui a questo festival. Ora io concludo, cioè conclude Pap, non concludo io. Mi fa paura. Allora, per rispondere alla domanda sul racconto, no? Che ha fatto prima, ecco, dei senegalesi, ma da quelle parti dell'Africa, non solo il Senegal, noi abbiamo una tradizione dei griot, ecco, perché lì c'era era un unico paese, dal Senegal al Mali attuale, una parte, no, che era l'impero del Mali, ecco, dove i griot lo facevano da padroni. Griot per semplificare, cantastorie, ecco, però erano anche storici, e loro che tramandavano la storia del e le tradizioni dei popoli dell'Africa occidentale, ecco, e questo è rimasto, questa tradizione, e nelle feste, nei racconti, eccetera, eccetera. Sul discorso del Wolof, raccontare il Wolof, e come mi ha detto un giovane scrittore, vabbè, è vero che noi scriviamo molto di più in francese, chi vive in Senegal scrive in francese, ma qualcuno ha iniziato a scrivere il Wolof. Ma lì il problema è che chi sa leggere in Wolof vuol dire che sa già leggere in francese, no? Quindi sa già, ma c'è qualcuno che lo fa, che scrive in Wolof. Ci sono dei romanzi, ma sono pochi. L'élite, ahimè, è una cosa che è destinato all'élite, ma comunque è una cosa che avanza. Io probabilmente non ho portato l'Italia, non ho quello che ho fatto è portare la lingua italiana dalla lingua italiana, e l'ho portato, ecco, nel Wolof, perché nel 700° anniversario della morte di Dante io ho iniziato a tradurre Dante Alighieri nella mia lingua madre, che è il Wolof, no? Ci vorrà tutta la vita, ma anzi, non l'italiano, io sono partito dal volgare, no? Ecco, dal volgare al Wolof, no? Del volgare del 1200 al Wolof, che è la lingua Wolof, per chi lo parla, soprattutto per uno come me nato in città, è diventata una lingua ibrida. Io prima parlavo della lingua bastarda che diventa italiano, ma anche il Wolof è una lingua bastarda, perché noi quando parliamo Wolof in città ci mettiamo il francese, ci mettiamo l'inglese, ci mettiamo le lingue locali, no? Adesso, quando due senegalesi di Firenze o di Milano parlano, bisogna ascoltare come inizia il discorso. Si inizia in Wolof, si passa al francese e si mischia con l'italiano, no? Ecco, noi, questo, ecco, è diventato la lingua Wolof. Quindi, ripeto, sta crescendo questo. Io Dante, soprattutto il primo canto, solo per il primo canto ci ho messo 6-7 mesi, perché io non volevo prendere la traduzione francese oppure l'interpretazione in italiano, che è più semplice, no? Sono parlato del volgare, lì ci sono anche ho avuto anche dei problemi di contesto, perché ci sono delle cose che non esistono nel panorama senegalese oppure da quelle parti dell'Africa. Per esempio, io per tradurre la parola lupo, dalle mie parti io non ho mai visto un lupo, non esistono i lupi, quando nella lingua non esiste lupo. Dovevo usare la parola francese e non l'ho voluto. Io sono nato in Senegal, non dico in altra parte dell'Africa, in Senegal, dove io non avevo mai visto una montagna. Il punto più alto del Senegal fa meno di 600 metri. No, che noi il secondo punto più alto del Senegal è un palazzo. Quindi se lo dico ai senegalesi che la parola montagna non esiste, mi dicono non è vero, perché noi un cumulo anche di macero, così noi lo cambiamo montagna, no? Quindi non esiste, quindi ho dovuto incontrare queste cose. Per concludere, un'ultima cosa di noi italiani neri, perché qui per lanciare un messaggio a un amico che non vedevo da tanto tempo, che prima di entrare ci siamo rincontrati, mentre lui era dentro il libro e non lo sapeva. Perché quando ho parlato di calcio, Gabriele, non so se sei nella sala, no? Io ti avevo intervistato sul discorso, ecco, degli hooligan, e tu mi hai raccontato, da milanista, mi hai raccontato la storia degli hooligan negli anni Ottanta. E nel libro, tu non sei Gabriele, ti ho chiamato Ernesto Corvetti, perché abbiamo fatto l'intervista in piazza Corvetto. Ecco, da pagina 41 tu ti ritroverai in questo libro, dopo 10 anni, 13 anni lo scopri. Grazie.